Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Quest'oggi alla Fiera di Bologna si è aperto SAIE 3, il Salone Internazionale della Filiera del Serramento, che proseguirà fino al 2 marzo. E allora ne approfittiamo per parlare un po' di questo componente edilizio che è sempre più sofisticato. Per esempio ci sono serramenti specifici per climi freddi, per climi caldi, per superfici esposte all'irraggiamento diretto. E molto in questi casi dipende dal tipo di vetro che si monta, come ci spiega il professor Fabio Peron, docente di fisica tecnica ambientale dello IUAV di Venezia. Sentite. Da una parte si passa dal doppio vetro al triplo vetro e dall'altro abbiamo una variazione delle caratteristiche di almeno una delle lastre con la stesura di un film basso emissivo che limita gli scambi radioattivi. In questo caso gli intrarossi a grande lunghezza d'onda, quelli che vengono riemessi dagli oggetti, dall'ambiente interno. Per cui questo vetro proprio separa, fa entrare gli infrarossi che provengono dal sole, ma non fa uscire quelli che invece provengono dall'interno della casa o dell'ufficio, insomma. Possiamo dire proprio così. Ecco, andiamo invece sui vetri, come dire, estivi, su quelli per i climi caldi. Sono i vetri che vengono chiamati vetri a controllo solare e qui sono vetri che o basandosi sulla riflessione della radiazione oppure basandosi sull'assorbimento della radiazione limitano la quantità di energia che entra. Quindi sono un po' questi vetri oscurati oppure riflettenti che si vedono tipicamente sulle grandi facciate dei grattacieli. Certo, diremmo che sono più efficaci i vetri riflettenti in quanto lasciano completamente fuori l'energia, mentre i vetri assorbenti in parte assorbono e poi riemettono verso l'ambiente. Si scalda proprio il vetro e quindi poi un po' di questo calore arriva dentro anche la casa. Ecco, poi c'è un altro tipo di vetri che, se non sbaglio, voi definite vetri selettivi. Sì, proseguendo in questa specializzazione si è cercato di trovare il modo di combinare nello stesso vetro caratteristiche utili differenti, in particolare di far entrare quanta più luce naturale possibile, cosa utile perché questa dà la miglior qualità visiva all'interno degli ambienti, e dall'altra di limitare durante il periodo estivo l'ingresso indesiderato di eccessiva energia solare. Si è riusciti, stendendo particolari film sulla superficie del vetro, di fare questo. Beh, in realtà, per quanto non sia certo un dato frequente, un buon progettista molto attento dovrebbe utilizzare serramenti diversi, non dico nell'estetica ma nelle prestazioni, per i diversi lati della casa a seconda della esposizione. Questo vale per i vetri di cui abbiamo parlato, ma in realtà anche per le altre caratteristiche del serramento, come per esempio la presenza di sistemi di ombreggiatura come le protezioni solari o altri sistemi invece di protezione più in generale dagli agenti atmosferici. In ogni caso presto sarà più facile orientarsi anche per il privato cittadino, dato che per effetto della direttiva europea Ecodesign è in arrivo una nuova forma di etichettatura, anche se non priva di qualche criticità. Ne ho parlato con Rita D'Alessandro, responsabile dell'ufficio tecnico normativo di Edillegno Arredo. Sentiamo. Per quanto riguarda finestre e porte esterne pedonali, è in vigore la marcatura CE del prodotto che comporta sostanzialmente la dichiarazione da parte del produttore di determinate caratteristiche, e tra queste c'è anche la trasmittanza termica del serramento, il che significa quanto isola, sì, diciamo così, sì, quanto sì, isola sì, e quanto non fa disperdere il calore d'inverno il serramento. Il serramento, per poter circolare, essere immesso sul mercato, venduto e quant'altro, deve possedere questo documento, cioè la marcatura CE di accompagnamento. E questo è la parte di base. Poi è vero che dovranno essere introdotti a breve degli altri elementi di caratterizzazione energetica del serramento, in particolare questa etichetta energetica che peraltro è prevista da una direttiva europea, un'etichetta energetica che ha la stessa stregua di quella che può essere l'etichettatura energetica per gli elettrodomestici, che è già in vigore, possa far conoscere al consumatore quali sono le prestazioni da questo punto di vista del prodotto. E qui abbiamo una classificazione tipo ABCD, analoga a quella che si utilizza per esempio per gli elettrodomestici, quindi dovrebbe un'etichetta sintetica. Ecco, le chiedo una cosa rispetto al fatto fatto che si applichi questa logica della classe ABCD al serramento, perché diciamo, la prestazione effettiva di un serramento è fortemente, ma molto fortemente condizionata, tanto più quanto è prestante il serramento, dall'installazione. Lei cosa ne pensa di un'etichettatura che etichetta un oggetto che però, a secondo di come viene installato, potrebbe avere poi di fatto risultati insomma molto diversi? Ecco, direi che ha toccato un tasto importantissimo, che è proprio la posa in opera del prodotto, perché è un prodotto fantastico, se installato male può ovviamente non portare... Si vanifica quasi tutto, insomma. Esatto, al risultato previsto. Però direi che in questo sempre la marcatura CE che le ho citato all'inizio ci può dare una mano, nel senso che la marcatura CE non dunque si applica soltanto sul prodotto, ma deve essere dotata di tutta una documentazione di accompagnamento che il produttore deve fornire in relazione anche alle modalità applicative di installazione del prodotto. Una sorta di manuale di istruzioni in pratica. Una sorta di manuale di istruzioni... Sì, esatto, su come si usa il prodotto, su come si installa, su come deve essere poi effettuata la manutenzione successiva e quant'altro. Questo, diciamo, nelle migliori delle ipotesi l'installatore seguirà queste istruzioni accuratamente. Però oggi non è in realtà molto facile distinguere l'installatore che fa questo lavoro accurato da chi non lo fa. Non esistono, se non sbaglio. Beh, non esistono in questo momento, diciamo, delle forme di qualificazione codificate a livello giuridico, ecco, se vogliamo essere precisi. Però c'è da dire che un po' tutte le associazioni di categoria settoriali si stanno e si sono già attivate su questo fronte, perché è riconosciuto proprio come il punto debole un po' della catena. Bene, ci fermiamo qui, ci sentiamo domani direttamente da Bologna, dal 6 e 3. Buona serata a tutti voi.